Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.10 in replica. E come sempre esiste una lunga e approfondita versione digitale, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Questa settimana è stata caratterizzata da due grandi notizie molto importanti. La prima riguarda la Gran Bretagna, che ha deciso di vietare l'uso di apparecchiature Huawei sulle reti di telecomunicazioni, in particolare il 5G, ma non solo 5G. E quindi la Gran Bretagna ha deciso di seguire la scia degli Stati Uniti. Qui stiamo parlando non solo di tecnologia, ma anche di una battaglia commerciale. Certo, c'è anche la battaglia tecnologica tra Stati Uniti e Cina, ma direi proprio tra Occidente e Cina. E sarà molto interessante vedere se l'Unione Europea come area e quindi come unione di stati oppure qualche singolo stato prenderà una decisione analoga. Poi l'altra grande, su questo non faremo approfondimenti visto che ne abbiamo parlato anche all'interno di GR24 in questa settimana, sul Sole 24 Ore, insomma, notizia che poi tra l'altro nelle ultime settimane probabilmente ha preso anche più una piega geopolitica, commerciale che tecnologica. E poi l'altra notizia molto importante, è molto grave, molto preoccupante, è l'attacco subito da Twitter, e di questo parleremo tra poco. Adesso iniziamo con alcune notizie in breve selezionate, condensate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo dall'Italia per poi finire in India e negli Stati Uniti. Allora, la notizia che riguarda l'Italia, la prima, è che Open Fiber ha presentato ad Infratel, che è una società del Ministero dello Sviluppo Economico che coordina i lavori della posa della fibra ottica nelle aree a fallimento di mercato. Allora, Open Fiber ha presentato un nuovo piano per portare fibra in queste aree. Il piano punta a recuperare il ritardo aumentando la forza lavoro, quindi acquisendo più personale e facendo contratti con società che posano la fibra ottica e approfittando anche della minore burocrazia prevista dalle DL semplificazioni. Ritardo che, ricordiamo, in buona parte è dovuto a problemi di carattere autorizzativo, burocratico, non arrivavano le autorizzazioni, ma anche per un sacco di ricorsi che Open Fiber ha dovuto affrontare, quindi ha ritardato. Poi sicuramente anche Open Fiber una percentuale di ritardo legata alla società è da tenere in conto. Allora, Open Fiber prevede di collegare il 65% delle unità immobiliari entro il 2021 e il 92% nel 2022. Finora Open Fiber ha collegato 8,7 milioni di unità immobiliari. Parliamo di YOLO, con la Y davanti, una giovane società italiana che fornisce solo via internet microassicurazioni e assicurazioni on demand, ha annunciato un aumento di capitale da 3 milioni sottoscritto da Neva Finventures e Intesa San Paolo Vita. Tra gli investitori ci sono anche Primo Miglio, che è un venture capital importante in Italia, Banca di Piacenza, Be Shaping the Future e il CRIF, interessante questo, che è uno dei principali player mondiali delle informazioni creditizie e altre soluzioni legate al credito, società italiana che opera in tutto il mondo. Ricordiamo che YOLO è una InsurTech, quindi siamo nel settore che mette assieme insure, cioè quindi assicurazione, e tech, tecnologia, e mette assieme i modelli di consumo tipici delle nuove generazioni, anche le possibilità e le flessibilità offerte da internet e dalle app. C'è stata una nuova operazione contro la pirateria online. La Guardia di Finanza ha perquisito 70 persone che facevano parte di un'organizzazione che piratava e vendeva abbonamenti illegali alle pay TV. Questo business è stato smantellato, erano 65.000 gli abbonati pirata che sono stati oscurati. Adesso parliamo dell'India. Fa notizia l'investimento da 1,2 miliardi di dollari in Flipkart, uno dei principali player dell'e-commerce indiano, che sta crescendo molto visti i problemi che l'India sta affrontando, così come buona parte del mondo, per la pandemia da coronavirus, cioè stanno crescendo gli acquisti online, così come è successo ovviamente in Italia. Allora, uno dei principali player mondiali delle vendite, cioè Walmart, che possiede il 70% di Flipkart, ha iniettato la maggior quota di denaro di questo 1,2 miliardi di dollari. Non si sa chi siano gli altri investitori, non è stato comunicato. Parliamo di Instagram, che ha annunciato il lancio in questi giorni negli Stati Uniti, per poi estendersi nelle prossime settimane a tutto il mondo, di una nuova funzione chiamata Instagram Shop, con la quale si possono fare acquisti di prodotti all'interno dell'applicazione. Il pagamento verrà effettuato con Facebook Pay. Robinhood Markets, una startup fintech americana che si rivolge soprattutto ai giovani per i loro investimenti, ha raccolto ulteriori 320 milioni di dollari. Questi stanno raccogliendo un sacco di milioni. L'ultima valutazione della società è di 8,6 miliardi. Robinhood Markets è forse la più nota app di investimento che non applica commissioni. C'è questo nuovo trend del non applicare commissioni. Un'ultima notizia riguarda il nostro mondo, quello della radio, ma in questo caso satellitare. L'americana Sirius XM ha annunciato un investimento di 325 milioni di dollari per comprare la piattaforma di podcast Stitcher e continuare l'espansione nell'online e nello streaming on demand. Nel 2018 Sirius XM aveva acquistato Pandora, che è una radio online in streaming americana, per 3,5 miliardi. Parliamo adesso della gravissima violazione subita da Twitter questa settimana. Allora, immaginate di vedere un tweet di Barack Obama dove c'è scritto che, visto il periodo, ho deciso di dare un contributo ai cittadini che soffrono per il coronavirus, e allora se nella prossima mezz'ora versi, tu che stai guardando questo tweet, versi dei bitcoin su questo conto, è stato indicato il conto bitcoin sul tweet, riceverai indietro il doppio, cioè versi 1000 e ne riceverai indietro 2000. E uno dice, cavolo, Barack Obama che scrive una roba del genere, c'è da crederci, no? Allora, peccato che il messaggio non fosse vero e non fosse stato scritto da Barack Obama, ma da un gruppo di truffatori informatici che, oltre ad essere creativi, sono stati così abili da utilizzare gli account Twitter di una lunga lista di personaggi famosi. Poi vedremo come hanno fatto. Allora, sono stati utilizzati gli account di Bill Gates, di Elon Musk, cioè il fondatore di Tesla e di SpaceX, il candidato democratico Joe Biden, il mitico finanziere Warren Buffett, Michael Bloomberg, altro personaggio famosissimo, il fondatore di Amazon Jeff Bezos e perfino Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, oltre agli account ufficiali di Apple, Uber e di altre società. Allora, secondo Twitter sono stati coinvolti 130 account, tra account aziendali e persone, anche se non sono stati utilizzati tutti per veicolare questi messaggi. Allora, la violazione è molto grave, gravissima, ma è grave anche che ci siano state alcune centinaia di persone che in pochi minuti hanno abboccato. Certo, capisco che se scrive Barack Obama, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, uno dice, cavolo, Warren Buffett mi dice di versare soldi e me ne dà indietro il doppio, ma cioè, allora sarà vero. Comunque hanno abboccato in alcune centinaia di persone, hanno versato il corrispondente di poco più di $100,000 su quel conto Bitcoin che era apparso su questi messaggi, una cifra che ovviamente non è tornata indietro, raddoppiata. Però Twitter sta indagando, ci sono ancora molte cose che non sono chiare. Twitter ha anche detto che alcune cose non le dirà. Indagano anche le autorità federali, in particolare c'è un'indagine dell'FBI. Ma che cosa è successo e come hanno fatto ad entrare in questi account? Corrado Giustozzi, esperto di cyber security dell'AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale. Corrado, bentornato a 2024. Ciao, grazie, ben trovato. Allora, come hanno fatto ad entrare in questi account? È una cosa molto grave che ha avuto, diciamo, poche ripercussioni effettivamente, cioè la truffa milionaria che si temeva non c'è stata, però diciamo se fosse stata orchestrata un po' meglio avrebbe potuto creare scompigli in borsa, politici, insomma avrebbe avuto ripercussioni importanti, sì. Com'è stato possibile? Beh, due fattori, diciamo, un aspetto tecnico che vale la pena di approfondire, non è complicato, ma soprattutto la cosa importante è l'altro aspetto, che è quello sociale, sociologico, quello che gli anglosassoni chiamano social engineering e noi chiamiamo la truffa alla Totò, quella che quando vende la fontana di Trevi all'americano. Perché è proprio così, alcuni dipendenti, alcuni impiegati di Twitter sono cascati nella classica truffa di quello che carpisce la buona fede, gli fa installare il malware, clicca sull'allegato, cioè una roba da manuale, e tramite questa cosa hanno avuto accesso i malintenzionati al, diciamo, pannello di controllo degli account Twitter, quindi quella schermata con cui i dipendenti Twitter possono amministrare gli account, quindi resettare la password, controllare l'anagrafica, queste cose qua, e hanno, diciamo, potuto avere accesso agli account e quindi poter mandare messaggi a nome del titolare anche degli account verificati, superando le misure di sicurezza in un modo tutto sommato semplice. Questo un po' che sbalordisce. Intanto, appunto, avendo accesso al pannello di controllo, hanno cambiato l'email dell'account della vittima, mettendocene uno, diciamo, di cui avevano il controllo loro. A questo punto ha resettato la password, sempre al pannello di controllo. Il reset la password è un'azione che ovviamente l'impiegato può fare, perché se io mi perdo la password devo poter, io abbonato, devo poter chiedere di cambiarla, e questa azione manda un avvertimento all'utente, gli manda una mail dicendo è stata cambiata la tua password, peccato che questa mail è andata non nella mail vera dell'abbonato vero ma nella mail fasulla inserito dal truffatore, e quindi l'abbonato vero non se ne è accorto. A questo punto il truffatore, sempre dal pannello di controllo, ha disabilitato, laddove c'era, l'autenticazione a due fattori, quella col token, con il messaggio eccetera, quindi abilitando l'autenticazione solo con la password, e anche di questa modifica l'utente non ne è venuto a sapere perché andava sulla mail fasulla, e a questo punto l'intruso ha avuto il controllo dell'account come se fosse lui il proprietario, perché aveva la password e tutto quanto, e quindi hanno mandato i messaggi a nome delle persone, quindi non sono stati hackerati gli account ma l'accesso degli amministratori, di uno o più amministratori che avevano accesso al pannello di controllo, e con questo giro di operazioni sono riusciti a impadronirsi gli account, sappiamo tutti quanti, e a mandare tweet a loro nome senza che nessuno se ne accorgesse, fino a un certo punto, perché poi dopo la cosa è diventata palese. Senti, ma c'è da preoccuparsi? Perché uno strumento così potente che viene bucato in questo modo, uno dice, ma qua può succedere di tutto. La risposta breve è sì, ci dobbiamo preoccupare, però attenzione, la cosa che è stata sotto attacco non sono stati i sistemi di Twitter, sono state le persone di Twitter. Le persone sono sempre l'anello debole. Tutti gli attacchi importanti da sempre, ma dagli antichi egizi, agiscono sulle persone e non sugli oggetti. E questo è vero soprattutto ai nostri giorni. Una dozzina d'anni fa, con un sistema esattamente uguale, fu bucata, come si dice in gergo, RSA, che è una società di sicurezza importante, quella che ha inventato e che produce per esempio i token, no? Quelle chiavettine con i numeri che cambiano, che adoperano tutte le banche, o che adoperavano fino all'anno scorso. e è stata bucata per poi, diciamo, tramite conoscenza di alcuni segreti crittografici, poter entrare in un sito della difesa statunitense. Però, attenzione, anche lì si è colpita la persona, carpendo la fiducia, facendo in modo che alla fine quello clicchi sul maledetto allegato di posta. L'anello debole è sempre più la persona, non il dispositivo. Quindi dobbiamo preoccuparci che il nostro personale, sia che siamo un'azienda di 15 dipendenti, sia che siamo una multinazionale, che il nostro personale sappia riconoscere questo tipo di attacchi di ingegneria sociale, questo tipo di attacchi di truffa, di carpire la buona fede, di spacciarsi per qualcun altro, perché sono questi gli attacchi che funzionano, perché il punto debole è sempre la buona fede, la credulità, l'ingenuità, la distrazione della persona. Grazie a Corrado Giustozzi per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. Comunque è incredibile che non ci siano nemmeno delle robuste procedure per evitare che uno o poche persone possano mettere le mani sui sistemi di amministrazione senza che altri vengano avvisati subito. Qui potremmo parlare per ore su sistemi che invece avvisano gruppi di persone e che quindi rendono questo molto difficile, molto complicato. Ci sono ancora molte cose non chiare, ad esempio non è ancora stato chiarito, e Twitter ha detto che non lo dirà, se gli hacker siano entrati in possesso dei messaggi diretti che vengono fatti attraverso Twitter, i direct messages, DM, no? Perché pensate, se uno mette le mani sui messaggi diretti che Barack Obama magari ha scritto a chissà chi, oppure quello che potrebbe aver scritto Warren Buffett. Adesso non penso che Warren Buffett usi i messaggi diretti di Twitter, però si sa mai, no? Per aumentare il livello di sicurezza dei servizi che utilizziamo ci sono sempre nuove idee. Ecco quella di una startup che è uno spin-off del Politecnico di Torino. Si chiama Toothpick. Abbiamo messo il link sulle nostre pagine su radio24.it alla voce 2024. Giulio Coluccia, amministratore delegato e cofondatore di questa startup, benvenuto a 2024. Grazie a voi. Voi avete ideato una tecnologia che si basa sui sensori fotografici. Spiegaci meglio di che cosa si tratta. Sì, esatto, dici bene. La nostra tecnologia sfrutta le imperfezioni di fabbricazione dei sensori fotografici che lasciano nelle foto scattate dai sensori delle tracce che sono invisibili, ma possono essere estratte, sono univoche, quindi identificano quello specifico sensore, e sono inclonabili. Quindi vuol dire che un produttore non può copiare l'impronta del tuo sensore fotografico in un altro sensore fotografico. Noi lo utilizziamo per identificare gli smartphone, i tablet, che sono dotati ovviamente di sensore fotografico, in sistemi di autenticazione multifattore online, quindi per l'accesso sicuro ai più disparati servizi come l'online banking, e-commerce, eccetera. Ci dici qualche cosa di più su queste imperfezioni che sono naturali, non è che sono dei difetti? Sì, sono entrambe le cose, nel senso che sono dovute a non idealità dei processi di fabbricazione, e sono tra l'altro relative all'infinitamente piccolo, cioè sono dovute al modo in cui ogni singolo punto del sensore converte i fotoni in elettroni, quindi veramente stiamo parlando a livello microscopico, e sono un difetto, ma essendo invisibile ovviamente non c'è alcun interesse a rimuoverlo e non è neanche possibile rimuoverlo, però appunto si può estrarre questo sottile differenza che c'è tra un pixel e l'altro. In un sensore commerciale ormai ci sono decine di milioni di pixel, quindi c'è veramente un sacco di informazione che si può attingere da un sensore, e noi la usiamo per questo scopo. Quindi voi utilizzate questa, chiamiamola, impronta digitale del sensore fotografico, diversa l'una dall'altra, per fare che cosa? Cioè la vostra soluzione a cosa serve? La nostra soluzione serve a proteggere le credenziali che sono memorizzate sui nostri smartphone, che usiamo tutti i giorni, decine di volte al giorno, ogni volta che ci colleghiamo al conto corrente piuttosto che al nostro social network preferito. Le utilizziamo quindi per proteggere queste credenziali, perché il sensore fotografico che noi abbiamo sul nostro telefono sta solo sul nostro telefono. Quindi se noi proteggiamo le credenziali con il nostro sensore fotografico, con l'imperfezione del nostro sensore, anche qualora un malware fosse in grado di clonare l'intero nostro telefono su un altro dispositivo, questo dispositivo non sarebbe in grado di utilizzare quelle credenziali, perché non avrebbe il sensore fotografico giusto che permetta di ricostruire la credenziale e quindi utilizzarla. Quindi solo il nostro device è in grado di utilizzare quelle credenziali, che quindi sono assolutamente al sicuro e al riparo da questo tipo di software malevoli. Oh Giulio, ricordiamo che questa è una tecnologia che voi non mettete a disposizione del consumatore finale, ma è per aziende che basano il proprio servizio, che vendono prodotti attraverso applicazioni, attraverso un'app. Pensiamo, che ne so, alle banche, ad esempio, al servizio di home banking, e quindi questa è una tecnologia che va integrata in queste applicazioni. Esatto, esatto. Noi abbiamo sviluppato quello che si chiama un SDK, quindi un software development kit, un piccolo software che gira su Android e gira su iOS, che sono i due sistemi operativi per telefoni più diffusi al mondo, pronta per essere integrata in applicazioni e sistemi terzi. Quindi ci rivolgiamo sia direttamente ai provider di tecnologia, oppure a tutta quella galassia di aziende che produce software per terzi, per esempio chi produce sistemi di autenticazione per le banche, ma anche per esempio le grandi aziende. L'accesso al cloud aziendale, alle risorse aziendali, che in questi tempi di smart working molto spinto è assolutamente un tema sentito. La vostra tecnologia sostituisce le credenziali di accesso oggi più utilizzate, cioè quelle biometriche, eh? Io che mi inquadro il volto con lo smartphone e lo smartphone sblocca un'applicazione. Dunque, la nostra tecnologia in realtà si affianca, è complementare. I sistemi di autenticazione più sicuri sono quelli che verificano almeno due fattori tra quelli che si verificano per uno schema di autenticazione che si chiama appunto multifattore: un fattore di conoscenza, quindi una password, un PIN, un fattore di possesso, cioè l'utente deve dimostrare di possedere un oggetto, tipicamente il telefono, che è quello che facciamo noi, e qualcosa che si è, quindi una biometria, l'impronta digitale e il proprio volto. Quindi la nostra tecnologia è complementare perché dimostra un fattore di possesso. E tra l'altro è interessante, potrebbe essere un dato interessante, sapere che è più probabile trovare due esseri umani con un'impronta digitale che corrisponde tra di loro che non due sensori fotografici con l'impronta del sensore che corrisponde. Quindi da questo punto di vista è una tecnologia estremamente discriminativa ed estremamente capace di distinguere un device da un altro. Senti, il sistema di autenticazione a due fattori più utilizzato è quello con una password, che io mi ricordo, e un SMS con un codice che mi arriva sullo smartphone. È una tra le più utilizzate anche da grosse aziende, grossi player su internet. Perché voi dite che la vostra tecnologia è ancora più sicura? Beh, in realtà sì, nonostante il sistema che tu hai citato sia ancora ampiamente utilizzato, purtroppo è una delle combinazioni meno sicure. Le password sono... l'efficacia delle password è stata ampiamente smentita, e questo è essenzialmente dovuto ai nostri limiti in quanto esseri umani. Ormai dobbiamo gestire decine e decine di account e per ognuno dovremmo ricordare una complicatissima password, ognuna diversa da un'altra. La dimostrazione del fattore di possesso tramite l'invio di un codice tramite SMS è assolutamente uno dei modi più insicuri di fare verifica del fattore di possesso, perché è facilissimo fare SIM swap, quindi l'utente malevolo disattiva la mia SIM e se ne attiva una con il mio numero ricevendo al posto mio i messaggi, oppure mi installa un'app malware che devia tutti gli SMS sul suo numero, quindi il tuo fattore di possesso diventa il suo fattore di possesso. Ci sono modi più sofisticati di fare verifica del fattore di possesso basati sulle cosiddette chiavi crittografiche, che è quello che usiamo noi. E la cosa migliore è abbinarli alla verifica biometrica, anche se appunto i lettori biometrici installati sui telefoni hanno diversi limiti tecnologici dovuti al fatto che sono essenzialmente dei lettori economici che devono stare su dei device economici. Quindi diciamo il meglio che si può fare è abbinare sicuramente un fattore di possesso sicuro come quello che facciamo noi con una verifica biometrica e lasciar perdere le password, che ormai sono qualcosa che ha qualche decina di anni sul groppone. Beh, diciamo che però come primo approccio una password serve, no? Non è indispensabile in realtà, non è indispensabile. E se noti, ormai diversi servizi le stanno abbandonando. Diverse app di home banking, per esempio, ormai non chiedono più il fattore di conoscenza per accedere, ma si accontentano della verifica biometrica che, ricordo ancora una volta, in maniera silente in realtà fa anche una verifica del possesso del device, perché va a sbloccare una credenziale presente sul device. Sì, in effetti è interessante. Le banche forse sono quelle che per prime hanno utilizzato questo, cioè hanno abbandonato la password. Ecco, perché molti dei servizi più utilizzati invece utilizzano ancora le password? Perché cambiare tecnologia spaventa e rappresenta un costo. E in questo costo però non si considera mai il costo che è dovuto alla perdita di credenziali e furti d'identità. C'è stato, se posso fare un esempio della contingenza, c'è stato una violazione molto grave di Twitter, per esempio. Sono stati violati degli account di dipendenti tramite ingegneria sociale, quindi vuol dire tramite fattori di conoscenza, e sono stati twittati messaggi che hanno rubato, mi sembra, $100,000 in bitcoin, twittati da celebrità e da enti e dall'ex presidente Obama e da tutti account verificati, quindi tutti account su cui in teoria si può star sicuri di quel che si legge. Quindi tu dici, se i dipendenti di Twitter, i cui account sono stati violati, avessero avuto come fattore di autenticazione una tecnologia tipo la vostra, non sarebbe stato possibile. Sarebbe stato molto molto più difficile. In questo settore non esiste l'impossibile. Si può semplicemente, non semplicemente, insomma, si può e si deve rendere la vita più difficile possibile a questo tipo di attaccanti. Giulio, grazie per essere stato con noi. A presto, in bocca al lupo. Grazie, grazie a te. Secondo i giudici della Corte di Giustizia Europea, l'accordo fra Bruxelles e Washington, che permette alle società americane di trasferire negli Stati Uniti i dati dei consumatori europei, di noi consumatori europei, non è adeguato. E questo a causa del rischio rappresentato dai programmi di sorveglianza americani. La Corte aveva già bocciato un accordo del genere nel 2015, e boccia dunque questa intesa conosciuta come Privacy Shield, scudo per la privacy, e dice sostanzialmente che questo sistema non è in linea con il livello di protezione della privacy che esiste in Europa. E devo dire che sicuramente l'Europa da questo punto di vista è un faro nel mondo. In molti stati americani o hanno già legiferato per implementare regolamenti simili al nostro GDPR, o comunque si sta discutendo un po' in tutti gli Stati Uniti e un po' in tutto il mondo, devo dire. E voi direte, ah, ma qua comunque è un caos perché i nostri dati sono messi in balia. Ecco, pensate che nel resto del mondo è peggio. Quindi, e poi comunque, insomma, la situazione sta lentamente, gradualmente migliorando, certo. Le autorità nazionali hanno il loro ruolo e quella della privacy italiana non so che piega prenderà. Hanno appena eletto i nuovi membri e raccoglieremo informazioni nelle prossime settimane. Non ho un giudizio per il momento, però diciamo che non mi sembra che abbiano stappato bottiglie in molti, eh. Allora, tutto questo caso, cioè la Corte di Giustizia Europea che boccia l'accordo fra Bruxelles e Washington, nasce dalla tenacia di un cittadino austriaco che si chiama Maximilian Schrems, che aveva denunciato 7 anni fa e iniziava un iter giudiziario che non è ancora, non mi pare che sia completamente chiuso, però certo questa è una bella vittoria, quella ottenuta l'altro giorno. Allora, un iter giudiziario per contestare il trasferimento di dati che Facebook faceva sui propri server situati nel territorio degli Stati Uniti. La causa era stata intentata in Irlanda, visto che Facebook ha sede in Irlanda. Allora, quali saranno le conseguenze per noi cittadini europei? Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione nel settore di internet e delle telecomunicazioni a Bruxelles. Apparentemente la decisione non comporterà effetti diretti e immediati percepibili dagli utenti, almeno nel breve termine, perché questi effetti saranno soprattutto per l'industria e comporteranno una tendenza ad aprire data center dove si trovano i dati degli europei, prevalentemente in Europa, piuttosto che a trasferirli in America. Sarà però proprio questa tendenza alla localizzazione europea dei data center a dare benefici agli utenti europei, perché aumenterà le tutele giuridiche dei cittadini ogni volta che ci siano contestazioni riguardanti i loro dati. I cittadini europei potranno beneficiare di un foro giurisdizionale europeo e soprattutto sull'aiuto delle nostre associazioni dei consumatori. Questo potrà avvenire ad esempio anche nel caso di un data breach che ponga a rischio le nostre password, le carte di credito, gli indirizzi sia mail che postale. In tali casi saremo maggiormente tutelati perché sapremo da chi andare per difenderci e da chi farci tutelare, cioè da qualcuno che si trova nel nostro paese o comunque in Europa, ma non certo negli USA. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13:10. Ma quella che state ascoltando è la nostra ricca, ricchissima versione podcast. Devo dire che questa settimana è un po' più ricca del solito. Beh, dipende dalla loquacia dei nostri ospiti, da quanti ospiti abbiamo, insomma dipende da tanti fattori, anche dalle notizie che ci sono settimane un po' povere, ci sono settimane un po' più ricche. E poi ci sono tante altre occasioni e tante altre combinazioni. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it, potete scegliere anche Facebook, Twitter o LinkedIn. Adesso parliamo di realtà aumentata e virtuale. Saluto Franco Tecchia, un ricercatore alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Insegna realtà virtuale aumentata presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Statale, sempre a Pisa. Benvenuto a 2024. Grazie. Lei è anche uno dei fondatori ed è il CTO, quindi si occupa dello sviluppo tecnologico di una società che è stato uno spin-off del laboratorio di robotica percettiva della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che si chiama VR Media o VR Media. Poi le chiederò anche alcuni pareri sui trend tecnologici che riguardano appunto sia la realtà virtuale sia la realtà aumentata. Voi come società avete presentato da poco, lanciato un prodotto dedicato al mondo industriale che si chiama Kyber 3 ed è interessante capire come uno strumento del genere viene utilizzato e in che ambito viene utilizzato. Già qui capiamo che alcuni sviluppi di queste tecnologie sono dedicati all'industria. Che cos'è Kyber 3? Dunque, Kyber 3 è un sistema di comunicazione fondamentalmente indossabile, quindi un classico casco da realtà aumentata che però è declinato per il mondo industriale. Noi ci concentriamo assolutamente sul mondo industriale perché pensiamo che proprio da questo mondo emergeranno le prime applicazioni in larga scala della tecnologia della realtà aumentata. Quindi è un caschetto di sicurezza equipaggiato con dei visori, telecamere e altri tipi di sensore, un collegamento a internet e permette a una persona sul campo davanti a un macchinario complicato o in un cantiere particolarmente remoto di essere in contatto con uno o più esperti che possono essere da qualsiasi parte del mondo. Quindi è un modo, se vogliamo, di fare un team esteso in cui soltanto una persona è in loco e altri lo seguono da lontano. Si collega ovviamente via internet con molta banda, immagino. No, in realtà proprio perché noi affrontiamo il mondo industriale, sappiamo che la banda in questo particolare ambito è un bene prezioso. Molto spesso dobbiamo pensare che le industrie sono in luoghi geografici un po' svantaggiati rispetto a quelli che potrebbero essere i centri urbani. Quindi nel nostro sistema, proprio intrinsecamente, noi facciamo un uso molto attento della banda, abbiamo degli algoritmi particolarmente sofisticati da questo punto di vista e quindi cerchiamo di limitare al massimo quello che è il consumo di questo prezioso elemento. A cosa può servire uno strumento del genere? Poi le chiederò qualche dettaglio tecnico maggiore. Abbiamo visto in altre situazioni visori di realtà virtuale e o aumentata che servono per fare manutenzione. Ecco, ci può raccontare un caso d'uso di questo strumento? Esattamente, lo scenario tipico è proprio questo, no? Quello della manutenzione. Ora, nel nostro caso, il nostro sistema è un sistema che è espressamente pensato per l'industria, quindi quando noi parliamo di manutenzione parliamo comunque di impianti che possono essere anche in condizioni abbastanza complicate, cioè possono essere impianti dove c'è rischio di esplosione perché c'è la presenza di gas. Noi lavoriamo molto nel mercato oil and gas, quindi il nostro sistema è un sistema particolarmente rugged e soprattutto con delle certificazioni che la maggior parte dei sistemi che si vedono in commercio non hanno, perché non sono pensati per questi casi, diciamo così, industriali. Quindi tipico caso d'uso per quanto riguarda noi sono impiantistica, cioè avviamenti di impianti in luoghi remoti del mondo, dove è difficile spesso anche soltanto tenere i documenti per poter andare a operare. Chiaramente sono impianti di estrema complessità, per cui l'expertise di un singolo esperto non è sufficiente, perché ci sono tematiche meccaniche, tematiche idrauliche, tematiche elettroniche, e allora la persona in campo o le persone in campo, perché ci possono essere anche più caschi, hanno sicuramente bisogno di connettersi quotidianamente con degli esperti in remoto che possono guidarli negli avviamenti assai complicati di questi impianti. O per esempio per fare delle ispezioni, noi abbiamo un partner molto importante che è Rina, ispezioni nel campo navale, in cui diciamo le persone atte a fare questa ispezione possono poi essere anche coadiuvate da degli ispettori posti remotamente, che in questi tempi di Covid è assolutamente una cosa utile, perché i viaggi e i trasferimenti sono assolutamente limitati. Certo. Che cosa vede l'operatore su questo visore? Allora, l'operatore di fatto vede la realtà che lo circonda e su questa realtà vede delle informazioni aggiuntive. Vede per esempio dei semplici indicatori che magari richiamano l'attenzione su un determinato oggetto, no? Supponga per esempio di un operatore che davanti a un pannello di controllo molto complicato ha 20 manopole, 20 pulsanti che deve azionare, indicatori. Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa, no? E questo lo fanno in maniera visiva, assolutamente intuitiva. Non c'è come nella comunicazione telefonica la quarta manopola a destra partendo dall'altro, quindi capirà che questa informazione qui è estremamente utile quando si è davanti ad apparati complicati. Come è possibile avere anche schemi elettrici, schemi funzionali, tutto più o meno flottante davanti al proprio campo visivo e collocato con l'apparecchiatura che io vado a manutenere. Stiamo parlando di realtà aumentata in questo caso, poi parliamo anche di realtà virtuale. Il visore di questo strumento, e direi tutto lo strumento, è prodotto da voi o comunque da vostri partner, cioè non prendete, come succede in altri casi, visori o altre tecnologie sul mercato, poi le mettete insieme. Eh sì, è corretto. Diciamo, questa è una caratteristica proprio di Vorrei Media. Quando noi abbiamo preso molti anni fa ormai la decisione di dedicarci al campo industriale, abbiamo preso coscienza del fatto che i dispositivi che si trovano in commercio non sono fatti per questo scopo, sono di solito dispositivi pensati per i grandi numeri del mercato consumer, quindi sono privi di quelle certificazioni, di quelle caratteristiche che li rendono adatte all'ambito industriale. Quindi abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo deciso di intraprendere una strada di creazione della nostra soluzione, e quindi diciamo ci differenziamo da altri player in questo mercato proprio perché siamo fornitori sia del software che fa funzionare le cose, ma anche dell'hardware su cui poi il nostro software gira. In questo ambito, quindi nell'ambito industriale, che tipo di ruolo o che tipo di chance può avere la sorella parente della realtà aumentata, cioè la realtà virtuale? Del resto anche il vostro nome nasce da lì, VR, Virtual Reality. Sì, no, ma infatti questa è una storia abbastanza interessante. Noi nasciamo diversi anni fa perché nasciamo proprio nel campo della realtà virtuale, perché insomma la realtà virtuale è sempre stata vista un po' come la prima delle due tecnologie che si sarebbe affermata. Poi piano piano siamo passati invece alla realtà aumentata perché ci siamo resi conto che la realtà aumentata rispetto a quella virtuale ha molte più applicazioni. Perché? Perché la realtà virtuale fondamentalmente, essendo una sostituzione della realtà, può essere utile in scenari soprattutto di training, no? Adesso sto parlando ovviamente del contesto industriale, quindi si possono usare tecnologie di realtà virtuale per fare fondamentalmente dei simulatori, no? Per insegnare alla propria workforce come si compiono determinate operazioni. Però il training è tutto sommato un'attività abbastanza limitata di quello che è il mondo industriale. La realtà aumentata invece può essere applicata anche al training, perché si può fare training anche con realtà aumentata, però si può applicare a manutenzione, si può applicare a team working, quindi diciamo ha molte più applicazioni nell'industria di quanto non sia l'applicazione della realtà virtuale. Quindi diciamo che attualmente c'è molto più mercato per la realtà aumentata. Nel campo dell'industria assolutamente sì, nel senso che il mercato potenziale della realtà aumentata è di diversi ordini di grandezza superiore a quello della realtà virtuale. Ok. Secondo lei, per quale motivo tutto l'hype di cui si parlava qualche anno fa, forse soprattutto sulla realtà virtuale più che sulla realtà aumentata, che forse è sempre stata vista come un po' meno sexy, si è un po' congelato, cioè si parla molto meno e gli stessi produttori di tecnologia, gli stessi fornitori di servizi si sono un po' calmati. Per quale motivo? Io credo che ci siano fondamentalmente due ragioni. Una ragione è di tipo tecnologico, ovvero che sia la realtà virtuale che la realtà aumentata hanno bisogno di tecnologie particolarmente miniaturizzate, diciamo così, e particolarmente potenti per poter funzionare, e a livello tecnologico, nonostante abbiamo fatto tantissimi progressi, forse non siamo ancora al punto per cui questi dispositivi siano così completamente trasparenti, no? Cioè il fatto che io, per poter usufruire di realtà virtuale ma anche di realtà aumentata, debba indossare delle apparecchiature ancora abbastanza ingombranti, che possono riscaldare, che possono avere problemi di potenza, di lavorazione, insomma la rende, al di là del fatto di quello che ci puoi fare, ancora un po' scomoda, no? Quindi sicuramente un motivo tecnologico. Poi c'è un altro motivo che è quello della killer application, cioè che perché una tecnologia possa prendere veramente, diventare una tecnologia adottata in maniera di massa, ci vuole un'utilità oggettiva affinché venga utilizzata. Per quanto riguarda la realtà virtuale, la killer application sono probabilmente quello che è il mondo dell'entertainment, dei videogiochi, no? Questo tipo di mondo qui, e diciamo che questo è una platea assolutamente valida da un punto di vista economico, ma forse non è proprio il totale della popolazione mondiale. Per la realtà aumentata, di nuovo, ci vuole una killer application affinché questi tipi di tecnologie poi vengano effettivamente utilizzate. E per questo noi ci siamo un po' concentrati sul mercato industriale, perché lì la killer application c'è, cioè la facoltà di prendere i tuoi tecnici e dargli delle capacità superiori a quelli che avrebbero senza l'ausilio, e quindi poter lavorare nel campo come fanno sempre e in più avere ulteriori capacità è sicuramente appetibile. Quindi dal punto di vista dell'industria è l'acquisizione, la velocità con cui si acquisirà l'uso di realtà aumentata sarà solo limitata dal primo elemento che ho citato, cioè quello tecnologico, ma per quanto riguarda la killer application è assolutamente delineata. Nella realtà virtuale la killer application è probabilmente il mondo dei videogiochi, eccetera, e quindi non so quanto poi, a parte questa comunità di persone, potrà veramente prendere il sopravvento anche, diciamo, per il pubblico più generale. Senti, in entrambi i casi quali sono i principali vincoli, ostacoli, limiti tecnologici attualmente? Allora, per quanto riguarda la realtà virtuale, direi sostanzialmente la potenza di calcolo e l'ingombro dei sistemi stessi, no? Perché siamo abituati a caschi di realtà virtuale che si stanno riducendo in dimensioni, però comunque continuano a essere ancora degli oggetti piuttosto ingombranti e oggetti che o sono collegati a un PC ad alte prestazioni, ma a questo punto limitano moltissimo la libertà di movimento delle persone, o se sono standalone, che è quello che ci vuole, hanno della potenza di calcolo limitata, quindi contenuti che puoi far vedere sono un po' meno appetibili. Per quanto riguarda la realtà aumentata, invece, fondamentalmente il problema ancora da superare è il problema della visualizzazione e gli apparati di visualizzazione, cioè le immagini che possono essere fatte vedere alla persona in campo, richiedono ancora delle tecnologie di display che non sono l'ideale, cioè sono comunque ingombranti, si riesce a far vedere soltanto in una parte del campo visivo, magari alcune tecnologie non funzionano outdoor dove ci sono delle forti intensità luminose, funzionano soltanto indoor, quindi diciamo da un punto di vista tecnologico per quanto riguarda la realtà aumentata direi che le tecnologie display sono assolutamente in questo momento il fattore limitante. Nel campo industriale queste applicazioni sono, immagino, non ancora largamente diffuse, cioè stiamo parlando ancora di poche aziende che utilizzano queste tecnologie. Sì, stiamo parlando ancora, ovviamente se prendiamo il mercato complessivo dell'industria stiamo parlando ancora di pochi casi, molto spesso legati non soltanto a questioni tecnologiche ma anche a questioni che indipendentemente del fatto che la killer application esiste, esiste anche nell'industria una certa inerzia dovuta al fatto che nuove tecnologie richiedono business model che vanno un po' a variare, no? Il modo di fare consolidato, quindi diciamo è un mercato che ha un'acquisizione abbastanza lenta per questo motivo qui, quindi diciamo non è soltanto una questione tecnologica, anche perché richiede un certo cambio di mentalità su come si fanno certe cose e anche in particolare un cambio di mentalità per i tecnici stessi che poi le devono utilizzare, che si devono adattare a un modo di fare un po' diverso da quello che lui magari sono abituati da anni. Però è indubbio che si arriverà a un punto in cui queste praticamente ogni persona, noi vediamo chiaramente che diciamo la maggior parte dei tecnici in un futuro prossimo sarà dotato di un dispositivo di comunicazione personale in realtà aumentata. Certo, ci aspettiamo magari che questo abbia una forma di un semplicissimo occhiale di sicurezza, no? Che sia una cosa estremamente semplice da indossare, che non dia assolutamente fastidio, però sarà assolutamente utilizzata da chiunque nel campo industriale, perché è utile. Quando faceva riferimento al cambiamento culturale, al cambiamento delle abitudini, immagino faccia riferimento a aziende che mandano in giro per il mondo i propri tecnici a sistemare un impianto dall'altra parte del mondo. E far capire che questa cosa la si può fare senza mandare in giro delle persone forse è un po' complicato, però immagino che il Covid vi stia aiutando, cioè non solo voi, come dire, stia cambiando queste dinamiche o no? No, no, è esattamente così, nel senso che è anche al di là del valore di un servizio, c'è anche un problema di valore percepito di questo servizio, quindi è assolutamente indubbio che dando dei dispositivi di realtà aumentata capaci di collegarsi all'altra parte del mondo, noi si possa incrementare la redditività di alcune società. Però normalmente ci sono contratti in essere, anche contratti decennali di assistenza che prevedono fisicamente la presenza di persone all'interno dello stabilimento, che ovviamente a questi contratti deve essere dato il tempo diciamo poter essere sostituiti da altre forme. Quindi diciamo il valore percepito di un esperto che ti aiuta ed è a fianco a te rispetto a un valore percepito di un esperto che ti sta aiutando ugualmente, magari in maniera anche più efficace, magari anche più velocemente di quanto potrebbe fare se dovesse volare e venire da te, è chiaro che comunque il valore percepito può essere diverso, perché non c'è fisicamente una persona, quindi uno si può anche chiedere ma perché io devo pagare un servizio di un certo tipo quando fisicamente non viene nessuno qua. Quindi ci sono anche questo tipo di considerazioni da fare. Chiaramente il Covid ha cambiato tutto e noi lo vediamo nell'interesse che sta generando la nostra tecnologia. Il Covid, togliendo di mezzo la possibilità di che fisicamente venga qualcuno, ha reso assolutamente necessario poter dare assistenza, poter dare aiuto da remoto, e automaticamente ha anche reso assolutamente normale per chi si aspetta di ricevere assistenza di non essere fisicamente presente, e quindi sta veramente cambiando tutto. Chiaro. Senta, se uno guarda al mercato consumer, i visori di realtà virtuale o i visori di realtà aumentata possono costare o alcune centinaia di euro, più tipicamente magari alcune migliaia di euro. In ambito industriale invece stiamo parlando di prodotti che costano molto di più. Per quale motivo? Cioè, qual è la ragione del costo più elevato? Beh, le ragioni sono fondamentalmente due: economia di scala e certificazione dei requisiti. Economia di scala perché quando io progetto e commercializzo un dispositivo consumer, mi aspetto di avere una vendita di milioni di esemplari, per cui posso mettere in piedi tutta una serie di scelte a livello di processo produttivo che fanno sì che i miei costi siano particolarmente bassi a unità. In ambiente industriale ovviamente i numeri sono molto più ridotti, quindi non avrò la possibilità di arrivare a decine di milioni di oggetti fisici prodotti, quindi ci sono dei costi di progettazione che si ammortizzano assolutamente meno, ci sono dei costi di produzione che si ammortizzano sicuramente meno del mercato consumer, ma in più devo anche garantire il funzionamento di questi oggetti in ambienti che sono tutt'altro che ospitali, quindi devono essere realizzati con dei componenti che prevedono un range di temperatura operativa di un certo tipo, devono essere oggetti che hanno delle certificazioni spesso particolari, certificazioni che sono diverse da paese a paese, ci sono quindi delle spese di certificazioni ingenti, caratteristiche specifiche dell'industria che affronti, che possono cambiare molto. L'oil and gas ha bisogno di certificazione ATEX, quindi di oggetti che sono costruiti in un certo modo, magari il marine ha bisogno di oggetti di altro, cioè la customizzazione è molto più spinta, quindi i costi salgono vertiginosamente. Chiaro, chiarissimo. Le faccio un'ultima domanda: all'orizzonte o dietro l'angolo ci sono degli sviluppi tecnologici molto attesi dal mercato o poco? A meno di sorprese, di cose che non sappiamo. Sicuramente, allora, non ci si aspetta sicuramente un incremento velocissimo delle capacità di calcolo, quindi da quel punto di vista non credo che ci saranno grandi sorprese, la capacità di calcolo aumenterà lentamente come ha sempre aumentata negli ultimi anni. Dietro l'angolo ci sono nuove tecnologie di display molto promettenti, e a quel punto forse l'ipotesi di avere occhiali sia di realtà virtuale che di realtà aumentata che non siano altro che esteriormente dei normalissimi occhiali a cui siamo tutti abituati, forse quello è il punto di svolta e credo che vedremo qualcosa molto significativo nei prossimi anni, probabilmente entro i 5 anni ci saranno delle tecnologie rivoluzionarie rispetto a quanto è disponibile oggi. Professor Tecchia, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. La ringrazio, arrivederci. Bentornati, l'ultima parte del nostro programma è dedicata ad un nuovo negozio, ma noi vorremmo poi ampliare lo scenario da un nuovo punto vendita molto bello, originale, innovativo, che cambia un po' le dinamiche del punto vendita dove acquistiamo l'elettronica di consumo o dove vediamo magari per la prima volta un prodotto. Beh, da qui partiamo per fare una serie di considerazioni, di ragionamenti, altri li farete voi con quello che vi diciamo. È stato inaugurato da pochi giorni un nuovo punto vendita, un ripensamento, una riorganizzazione del punto Media World di Viale Certosa a Milano, un nuovo grande spazio con 24 negozi monomarca, un villaggio della tecnologia che molti dicono, e probabilmente sarà così, diventerà una meta di visita nella città di Milano quando torneranno ovviamente i turisti. Saluto Giuseppe Cunetta, che è responsabile marketing ed e-commerce in Media Market Saturn, che è la capogruppo tedesca di Media World a livello globale. Benvenuto 2024, bentornato. Ciao Enrico, grazie mille e un saluto a tutti gli ascoltatori. Partiamo da questo nuovo punto vendita e raccontiamolo brevemente. In che cosa consiste questo nuovo concetto di punto vendita? Ma come accennavi tu nella premessa, il punto vendita, il nostro superstore di Viale Certosa a Milano, è uno dei punti vendita storici del nostro brand Media World in Italia, tradizionalmente un punto di elevatissimo traffico ed attrazione. Quello che abbiamo fatto adesso, è alla luce del trend che si registra nel mercato e della comprensione di un percorso che il cliente fa attraverso touch point fisici e digitali alla scoperta di prodotti, servizi e soluzioni, e ripensare e riconfigurare completamente la superficie, andando a lavorare nella logica di enfatizzare al massimo la relazione col cliente. Quindi tutto quello che noi proviamo a fare è creare le condizioni perché il luogo fisico diventi in realtà una comunità. Noi di fatto non lo chiamiamo più negozio, lo chiamiamo village, perché appunto come ci insegna la sociologia dei media, il villaggio è il luogo in cui la comunicazione, le relazioni, le connessioni, che poi sono la nostra reason why vera, tra le persone esistono. Come facciamo questo? Lo facciamo attraverso la combinazione di showroom, quindi di un'area completamente dedicata all'immersione. Il visitatore del nostro punto vendita ha la possibilità di entrare all'interno dei brand che ama, dei brand più iconici della nostra industria, ma anche tutto questo è combinato con ovviamente con una superficie tradizionale di vendita a corridoi e scaffali e con luoghi in cui avvengono happening veri e propri, quindi presentazioni, training, esposizioni specifiche, insomma un luogo vivo è fatto di conversazione e condivisione. Ecco, questo è l'obiettivo che ci siamo posti. Per rispondere a quale esigenza dei consumatori, molti che ci stanno ascoltando forse hanno già la risposta, però qual è il vostro punto di vista? Ma guarda, diciamo, il nostro punto di vista è molto semplice. Noi abbiamo la fortuna di essere i retailer, i distributori di uno dei mercati più entusiasmanti, più ricco di novità e più rivoluzionario che esistono. E questo mercato è un mercato che, come tutti sappiamo, non conosce freni, cioè le persone amano sempre di più la tecnologia e la usano in ogni occasione della loro vita. L'esigenza che noi ci proponiamo di rispondere è quindi estremamente versatile ed è quella di accompagnare in un'esplorazione, in una navigazione, in una scelta e anche in un apprendimento di tutte le soluzioni che, come dice il nostro marchio, la nostra insegna, sono fatte apposta per ciascuno di noi. Senti, questo negozio per voi è il negozio del futuro e quindi lo replicherete anche negli altri punti vendita, che appunto diventeranno, come tu dicevi, village, non negozio, ma MediaWorld Village. Sì, il nostro MediaWorld Village è di fatto è il flagship, è la punta di diamante della nostra presenza fisica. È una sperimentazione che nasce dalla collaborazione con lo studio di architettura di Fabio Novembre, ed è uno dei format che noi stiamo sperimentando, di questo genere, che noi stiamo sperimentando in Europa, nei vari paesi in cui siamo presenti. Ce ne sono altri, ci sono piccole variazioni, siamo alla ricerca come sempre del piatto perfetto fatto con gli ingredienti migliori per poterlo poi standardizzare e industrializzare. Le premesse che registriamo sono davvero straordinarie, siamo veramente orgogliosi del lavoro fatto fin qui e siamo certi che il Technology Village di MediaWorld avrà delle nuove location presto in altre città rilevanti, in Italia e all'estero. Quindi non è detto che tutti diventeranno così, però potrebbero essercene altri. No, scusami, questo è certo, esiste comunque una diversificazione, sia per dimensione che per missione. Un'altra novità che abbiamo recentemente lanciato si chiama MediaWorld Mart, si tratta di un negozio di prossimità di piccole dimensioni, parliamo di un negozio intorno tra i 100 e i 250 metri quadri, ok? E questo tipo di negozio ha una missione completamente diversa, sebbene entrambi consentano, soprattutto attraverso lo scaffale infinito digitale, di accedere all'intero catalogo dei prodotti, ma soprattutto anche di accedere a tutti quelli che sono i servizi distintivi, quindi dalla riparazione rapida dei propri smartphone, alla configurazione per l'accesso e per i dati, alla sicurezza, ai servizi più vari di consulenza o di finanziamento che sono disponibili in tutti i nostri punti vendita. Grazie a Giuseppe Cunetta per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Un piacere, a presto, grazie. Allora, dopo aver visto questo punto vendita e dopo aver parlato con Giuseppe Cunetta, mi è venuto in mente che in una recente puntata di 2024+10, questa nuova serie di podcast che vi stiamo proponendo sul nostro sito internet con una prospettiva un po' più ampia rispetto al 2024, infatti si chiama così, 2024+10, quindi uno sguardo verso il futuro da qui a 14 anni. In una recente puntata Gianfranco Giardina, il direttore di D-Day.it, che spesso è nostro ospite, aveva parlato, tra i vari scenari, tra le varie ipotesi, anche dei punti vendita e di come si sarebbero dovuti trasformare, e diceva probabilmente saranno punti vendita monomarca e punti vendita in cui troviamo molta più competenza. Forse questo che stiamo commentando è un primissimo seme, un primissimo segnale di questa evoluzione che magari, chi lo sa, non accadrà in 14 anni, ma forse in meno tempo. Allora ho chiesto un commento a Gianfranco Giardina sul nuovo punto MediaWorld di Viale Certosa a Milano. Beh, innanzitutto va detto che il negozio è bellissimo. Secondo me, ne ho visti tanti di negozi, è in questo momento il più bello che c'è in Italia, il più bel negozio di elettronica, quello che ti fa fare l'esperienza più soddisfacente di scelta e poi quindi anche d'acquisto. Allora è un primo passo verso quello scenario più a lungo termine di cui avevamo parlato nel podcast. Perché dico che è un primo passo? Perché ancora il negozio è un negozio accentrato, è un negozio molto grande, sono 7.000 metri quadri, ai quali l'anno prossimo si aggiungeranno altri 4.000 metri quadri per una eSports arena, e quindi diciamo è uno spazio gigantesco e che quindi si presta ad avere tutta la parte di vendita classica di un superstore di elettronica, della parte esperienziale dove MediaWorld organizzerà degli eventi. C'è il negozio, il temporary shop Tesla adesso in uno di questi spazi con la Tesla Model 3 esposta direttamente e poi 24 botteghe. Allora, è chiaro che queste botteghe tecnologiche, così chiamate, sono botteghe monobrand gestite dai singoli brand. E questo è un grosso passo avanti. Perché? Perché non possiamo oggettivamente più chiedere a un addetto vendita di un negozio elettronica di sapere tutto di tutti i prodotti, soprattutto adesso che alcune economie necessarie dovute alla competizione, alla scarsa marginalità del mercato elettronico, costringono gli addetti vendita a non appartenere più a un singolo settore, a un singolo reparto. Una volta c'era lo specialista della fotografia che sapeva tutto, adesso un addetto vendita oggi è la fotografia e domani potrebbe trovarsi gli elettrodomestici. Quindi come fa, poveretto, a sapere veramente tutto di tutte le categorie? Poi certamente si cerca di tenerli per specialità, e questo non vale per me, vale in realtà per tutti i negozi. Molti infatti lamentano il fatto che nei negozi la competenza non è più quella di una volta, è anche il numero di persone che non è più quello di una volta, perché internet ha portato una competizione tale per cui con i prezzi più alti non si può stare, i prezzi devono scendere, i margini scendono di conseguenza e non c'è più spazio, diciamo, economico per avere uno staff di 70-80 persone in un negozio, diventano 40-30. Dipende poi dalle superfici, ovviamente. In questo negozio lavorano 150 persone, di cui alcuni sono addetti MediaWorld che curano tutta la parte di vendita, diciamo, più tradizionale, e tutti gli altri sono gli addetti invece specifici dei brand. Io lì posso veramente sapere tutto sul prodotto di quel brand, chiedere informazioni, e io credo che questo sia il futuro della fase di scelta. Poi qualcuno dice, sì, io vado lì, mi informo, poi compro online. Beh, questo è una cosa, una libertà che non può essere negata a nessuno, ma non c'è dubbio che l'esperienza a questo punto può iniziare non su un sito web che magari spiega e non spiega e comunque non risponde alle domande, ma può iniziare in un negozio come questo. Poi dove l'esperienza d'acquisto si concluda, questo dipenderà dalla competitività dei vari canali e dei vari negozi. Ti faccio un'ulteriore e ultima domanda sull'importanza della esperienza d'acquisto, perché può sembrare che noi stiamo facendo un discorso da addetti ai lavori un po' elitario, invece è importante anche per il mercato e per in definitiva poi anche il benessere dei consumatori che comprano in modo più avveduto e possono utilizzare al meglio i loro prodotti. Cioè la fase di scoperta dei prodotti e di conoscenza dei prodotti è fondamentale. È fondamentale anche poterli toccare. È per questo che io sono un po' scettico rispetto ad alcune idee di omnicanalità che vengono proposte, dove si parla di scaffale infinito, perché io vado nel negozio e lì ho un touchscreen che mi permette di fare l'acquisto sul catalogo intero online, ovviamente, quindi guardando, facendo un'esperienza simile all'acquisto fatto sul sito, via web, che non a tutti è facile, qualcuno preferisce magari farsi aiutare da un commesso nel scegliere il prodotto che compra online, ma non è la stessa cosa. L'esperienza, la domanda, l'intervista che l'addetto vendita deve fare al cliente per sapere quali sono le esigenze, in un mondo dove tutti i prodotti interlavorano tra loro, non posso fare un consiglio vero della buona scelta di un prodotto se non so quali sono gli altri prodotti che sono a casa. Quindi è un'interazione che ci deve essere. Allora, permettetemi una semplificazione, però dividiamo il mondo in due. Chi ha precisamente consapevolezza tecnologica e quindi, diciamo, non ascolta neanche 2024 perché sa già tutto. E allora, a questo punto, quello sa benissimo cosa ha in casa, sa benissimo quali sono le funzionalità, sa benissimo di cosa ha bisogno e probabilmente comprerà online senza chiedere permesso a nessuno, senza ha bisogno di nessuna assistenza. Il resto del mondo, invece, questa consapevolezza non ce l'ha. Va bene, legge di Day e si aiuta, ascolta 2024 e si aiuta, però avrà bisogno di porre delle domande e di ricevere una risposta. È lì che serve il negozio. Se il negozio diventa un cash and carry, uno scaffale, dove vado lì, scelgo e prendo, allora, perdonatemi, è più semplice l'online, no? Dove io prendo, scelgo e me ne vado. Possono bastare delle brochure o dei cartelli messi in negozio o il cartellino prezzo con qualche indicazione tecnica? Io dico di no, perché sul web ci sono più informazioni, è più ricco. La missione del negozio è proprio quella. Voglio dire, Apple lo fa da anni negli Apple Store e guarda caso sono negozi monomarca, e lo fa perché? Perché vuole controllare l'esperienza e vuole controllare come viene proposto il prodotto dall'inizio fino alla fine. Si sa che Apple è fatta un po' così, Adesso anche gli altri brand lo stanno capendo. Avere il Tech Village con 24 negozi monobrand è il primo step, ma ha un piccolo problema: non è uno step replicabile, o meglio, non è replicabile in larga scala. Può essere fatto in un altro negozio, probabilmente mi viene in mente, conoscendo l'assetto dei negozi MediaWorld, il negozio di Roma Buffalotta potrebbe essere uno dei prossimi deputati a questo format, ma non può essere replicato all'infinito. Allora qual è il futuro? E torniamo al discorso che facevamo, il futuro è un po' come la distribuzione automobilistica, quindi concessionari, negozi monobrand che non siano gestiti dai brand, anche Apple di cui abbiamo parlato prima, ha certo i suoi Apple Store, che sono flagship, l'Apple Store di Milano, Piazza Liberty, per esempio, è un negozio incredibile, non replicabile, anche quello praticamente molto, molto difficile, comunque molto costoso, ma anche i premium reseller, che sono commercianti terzi, come potrebbe essere MediaWorld, che fanno un accordo di concessione per cui trovano gli spazi nella città, un negozio più piccolo, nel centro cittadino, nelle vie dello shopping, e lì si fa un negozio che ovviamente ha gli stilemi, lo stile, le linee guida del brand, quindi risponde a tutto quello che il brand vuole comunicare in termini di comunicazione. Il brand formerà i commessi perché sappiano veramente tutto sui loro prodotti, e a quel punto chi vorrà comprare o andrà in un Tech Village e quindi troverà tante competenze tutte insieme, oppure, come quando si compra un'automobile, oggi si va prima in un autosalone di un brand, poi in quello di un altro brand e poi in quello di un terzo brand. Questo, secondo me, è il primo passo, e per questo è un passo giusto, un bel laboratorio per capire se veramente, in questo caso gli italiani e i cittadini di Milano, vogliono farsi aiutare nell'acquisto oppure vogliono andare avanti magari a acquistare senza troppe consapevolezze o solo col consiglio dell'amico più capace. Come sempre grazie per la vostra attenzione, questa è la versione podcast di 2024. Vi ricordo che trovate online le nuove puntate di 2024 più 10, la nostra nuova serie di podcast che vi proporremo in onda anche durante il mese di agosto. Noi ci fermeremo con 2024 per il mese di agosto. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie per la vostra attenzione, questo l'ho detto già prima e mi viene un po' da ripetere, e vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con me, ovvero 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.